uccello scorre verso il mare, piccolo diventa un grande fiume, si ingrosserà, non troverà alternative, incontrerà, supererà barriere, rotoleranno, poi spariranno dei sassolini dal suo letto, quelli pesanti, i più importanti, non lasceranno il loro posto. La roccia non si sgretola, segue una sola regola, qualsiasi tempesta la scalfirà, però il vero amore non cederà. La roccia non si sgretola, è proprio come un boomerang, la vera amicizia non se ne andrà, e se si allontana ritornerà. Fai giustizia come sempre, fai dimenticare certa gente che sbaglierà e non sarà poi tanto leale, che inciamperà e rischierà di affogare, che presuntuosa e pretenziosa porterà avanti la sua guerra con mille farse, allora forse poi vincerà un'altra battaglia. Ma la roccia non si sgretola, segue una sola regola, qualsiasi tempesta la scalfirà, però il vero amore non cederà. La roccia non si sgretola, è proprio come un boomerang, la vera amicizia non se ne andrà, e se si allontana ritornerà. La roccia non si sgretola. Ancora più forte ritornerà.